felice ho scritto la mia prima canzone. In realtà non l'ho scritta, era già composta. Io sono raccolta, c'è un albero di canzoni. Basta solo aprire il cuore e vederlo da lui puoi. Sì, raccogliere la tua canzone, oh yeah. Gira, gira la giostra e rompi la tua pignata. Raccogli il tuo talento e incontro la vita. Fai volare la musica e lascia che si diffonda. Che rigemme ora l'albero e ne appiene le fronde. Sì, e ne appiene le fronde.